che con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento di anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. Ebbene, la Fiorentina ferma la Juventus e lo stop poteva anche essere diverso visto come i Viola hanno giocato. Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Tutti convocati voi all'800 24 00 24, numero verde. Poi parleremo anche di un volley che ha inventato la formula all'americana senza retrocessioni. Parleremo di tutto quello che vorrete all'800 24 00 24, compresa la giornata, la serata che questa sera il calcio italiano sta per vivere. Intanto saluto e ringrazio un signore che ha giocato 127 partite con la Fiorentina tra l'89 e il 94. C'era quando Baggio tornò a Firenze da avversario e quando la Fiorentina sfidò la Juve in finale di Coppa UEFA, anche se quella partita non la giocò. Beppe Iachini, buonasera, buongiorno. Buonasera, buongiorno, buongiorno. Non la giocasti quella partita? No, ero infortunato, avevo subito un infortunio alla caviglia qualche settimana prima, proprio arrivando fino alle semifinali, poi purtroppo la finale non arrivai stregata in buone condizioni. Senti Beppe, ieri sera ho detto lo stop poteva anche essere più roboante, cioè la Fiorentina meritava di vincere questa partita. Beh, sicuramente ha fatto un'ottima gara, la Juventus è stata messa sicuramente anche in difficoltà dal pressing, dall'organizzazione di gioco della Fiorentina, un test importante. La Juventus ha dimostrato ancora, nonostante tutto, di essere una squadra che sarà sicuramente protagonista in questo campionato, è la favorita per lo scudetto, però ecco, la Fiorentina ha dimostrato che è in grande crescita, la società ha fatto un grande sforzo economico nell'allestire una squadra competitiva, Montella sta facendo un buon lavoro, quindi sicuramente ci sono tutti i presupposti per vedere una Fiorentina protagonista in questo campionato. Senti, Juventus senza Vucinic, come la Lazio senza Klose, al top player, al giocatore che cambia le marce in attacco non si può rinunciare, Fiorentina senza Jovetic, è così. Beh, sicuramente questi sono giocatori importanti, farebbero la differenza in qualsiasi squadra. È chiaro che con gli impegni infrasettimanali che la Juventus stessa magari quest'anno ha e lo scorso anno non aveva, è chiaro che mette ancora di più a rischio alcuni giocatori, quindi per l'utilizzo nelle tre partite consecutive è chiaro che dovrà abituarsi in fretta a questo nuovo tipo di situazione, perché come ripeto lo scorso anno aveva la settimana tipo lavorativa per poter preparare le gare e quindi essere sempre al top a livello fisico. Quest'anno la Juve dovrà far leva su tutta la rosa per poter rimanere sempre ad alti livelli. Sei d'accordo? Di condizioni che di risultati. Beppe, sei d'accordo con Boban? Poi lo sentiremo che dice che Pirlo deve rinunciare alla nazionale perché sennò non ce la fa? Come dicevo, questo è un po' il discorso che facevo poco fa. Pirlo lo scorso anno riusciva a preparare la settimana come tutto il resto della rosa, la settimana tipo lavorativa, non c'era il turno infrasettimanale. È chiaro che se si vanno a sovrapporre più impegni, anche Pirlo è un giocatore che è sicuramente un ottimo elemento, un giocatore molto molto importante per la Juventus, però va anche gestito per quello che riguarda poi lo sviluppo e gli impegni stagionali. C'è un ascoltatore che ci scrive un messaggio SMS, parlate di B, lo faccio subito con Beppe Iachini, è vero che hai rifiutato la panchina del Cesena perché ne cerchi comunque uno in Serie A? No, io non è che diciamo che ci sono stati degli interessamenti da parte di alcune società in questo inizio di campionato, però ho preferito magari aspettare, rifiutare è una brutta parola, però magari aspettare, perché dopo tre promozioni fatte negli ultimi 4 anni è chiaro che un po' la Serie A me la sono conquistata e guadagnata sul campo, quindi mi piacerebbe insomma poter avere anche la possibilità di giocarmi qualche chance per poter allenare in Serie A, quindi per ora preferisco magari aspettare un po'. Per chiudere sul capitolo allenatori, crisi di Milano, un allenatore, quello del Milan, che mi sembra non avere più la fiducia dell'ambiente e anche dello spogliatoio, un altro Stramaccioni che mi sembra un po' prigioniero della personalità dei suoi giocatori più anziani. Ma il Milan è una squadra che, a mio avviso, ha tutte le potenzialità, nonostante abbia perso sicuramente tre campioni, perché parlo di titolari, giocatori, tre o quattro giocatori importanti, però è anche una squadra che sicuramente non è quella che stiamo vedendo ora a livello di rendimento, a livello di risultati, perché se andiamo a vedere, insomma, i giocatori che compongono la rosa o la formazione sono giocatori che possono sicuramente, certo, non da dire di una squadra che possa ammazzare il campionato, però una squadra che può lottare sicuramente nel campionato per la Champions. Sta vivendo un momento magari di difficoltà, però sono convinto che con il lavoro, con un po' di pazienza, possa tornare ad essere protagonista. L'Inter, dal canto suo, certo, sta pagando un po' alcune situazioni, penso di conoscenza, anche le nuove idee del nuovo allenatore, magari un po' di nuovi, l'inserimento, deve trovare, a mio avviso, un vestito giusto ancora. L'ideale è poter far coesistere dei giocatori che hanno determinate caratteristiche, vedi Cassano, Snyder e Milito. Nel momento in cui avrà trovato gli equilibri giusti, potrà dire la sua anche per il campionato. Allora c'è chi scrive: Giuseppe da Firenze, con sarcasmo tutto toscano, la Juve gioca stasera, perché ieri sera ho visto solo la viola. 800 24 00 24, siete tutti convocati. Abbiamo sentito una voce di Boban che ora risentiamo per intero su Andrea Pirlo, poi sentiremo anche la risposta di Carrera. Boban. La Juve è lenta, la Juve con un Pirlo veramente che deve pensare forse di ridurre i suoi impegni, questo penso la nazionale, perché così non va, ma io non vorrei fare uno sgarbo agli italiani, però voglio dire quello che è il mio pensiero, perché così forse, se continua così, dovrebbe cominciare a pensare, perché farà male a se stesso, forse anche la nazionale e soprattutto la Juventus. Ma Carrera ha risposto, mi pare, a queste considerazioni di Zorro Boban. Dobbiamo trovare modi di farlo lavorare più che farlo riposare, perché giocando ogni tre giorni non si ha il tempo di allenarsi, quindi lui tra nazionale e tutto ha avuto poco tempo di allenarsi e quindi sta accusando un po' questo, però ripeto, è sempre utile alla nostra squadra. Dunque adesso andiamo nella sala delle conferenze stampa prepartita. Ricordo il programma di questa sera: 20:45, anzi 18:30, si comincia da Pescara-Palermo, poi c'è Catania-Atalanta, Chievo-Inter, Genoa-Parma, Milan-Cagliari, partita delicatissima per i rossoneri, Napoli-Lazio che è la partita più interessante della serata, Roma-Sampdoria, Torino-Udinese, posticipo domani Siena-Bologna che non mi sembra una partitissima. Siamo nella sala delle conferenze stampa, partiamo da Allegri. Mister, fai una prova di... Prova. Un distrutto. È pronto il microfono? Male. Si sente? Non funziona. Annullata la conferenza. Funziona il microfono? No, non funziona il microfono, caro Allegri, anche perché ieri ha parlato Tassotti. Allegri è squalificato, come sappiamo, e allora sentiamo che cosa ha detto Tassotti, che questa sera entrerà a San Siro usando i tappi per le orecchie come quelli dei nuotatori. Non so, ci sono altri momenti difficili, però un inizio così non lo ricordiamo, insomma, come se ne viene fuori? Se ne viene fuori cercando un po' di serenità. Credo che in questo momento sia forse più facile giocare fuori casa che in casa, perché un conto è essere fischiati dai tifosi avversari, un conto è essere magari fischiati dai propri tifosi, ma devo dire che fino a questo momento i tifosi con noi si sono sempre comportati bene, hanno sempre sostenuto la squadra. Caro Stramaccioni, buongiorno. Non le serviranno i tappi per le orecchie magari questa sera, ma che cura preparato per l'Inter che va a Verona con il Chievo? La cosa che deve emergere dalla partita al fischio finale è che l'Inter ha fatto un passo in avanti enorme da un punto di vista della solidità, della presenza, del concedere palle gol facili. Questa è la nostra, come posso dire, cura a un problema. Non vogliamo più perdere partite così. E adesso vorrei fare un salto a Roma per chiedere a Petkovic dove colloca la sua squadra in una ipotetica classifica. Nessuno è più forte di noi. Noi dobbiamo sempre andare con questa testa in campo e essere presenti, ogni tanto anche un po' presuntuosi, ma dimostrare tutto il nostro valore sul campo. Dall'allenatore che piace tanto allo Tito perché ha fatto il Boy Scout a Mazzarri che sarà suo avversario questa sera, chissà se è d'accordo con Petkovic. Non ho motivo per pensare il contrario, perché al di là dell'episodio di Catania io credo che questa squadra dall'inizio dell'anno ha interpretato sempre o quasi sempre le partite in un certo modo. C'è anche lo stimolo di avere una squadra top, per me una delle migliori squadre come organico, come organizzazione che c'è nel nostro campionato, quindi c'è anche questo stimolo. Ma vedo che laggiù in fondo alla sala stampa globale c'è chi sta bisticciando, è Ciro Ferrara. Per quello che è stato il mio passato, i 20 anni di calcio, da calciatore, vi devo dire che alcune dichiarazioni secondo me hanno assolutamente leso l'immagine non soltanto del sottoscritto, ma di una società importante, e quindi non posso accettare quel tipo di dichiarazioni. Sapete che non corre buon sangue e non posso nasconderlo. Non usa la parola paraculo come aveva fatto Vialli a questi microfoni, scatenando un putiferio. Ciro Ferrara ci va giù morbido. Ma Zeman vuole rispondere o chiudere la polemica? Ma io non devo chiudere niente, io penso che sono tribunali che per 10 anni si sono interessati di quei problemi, quindi non sono fatti miei. Basta? Avanza. Avanza, secondo Zdenek Zeman. Stefano da Verona, Emiliano dalla provincia di Mantova, Andrea da Trento, sono convocatissimi. 800240024, Stefano. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, intanto volevo dire che ieri sera si è dimostrato che la Juve non è un extraterrestre, ma vive anche lei nella Terra. E volevo chiedere, secondo lei, se già stasera si può vedere la vera antagonista della Juventus, cioè nella partita Napoli-Lazio. E poi volevo chiederle se antagonista... nella sua... Sì, dica. Dica. Niente, volevo dirle se anche nel suo taccuino può aprire una parentesi per parlare un po' anche di Serie B, visto che io sono un tifoso dell'Hellas Verona. Sì, nel taccuino la apriamo volentieri questa parentesi per la Serie B, non oggi magari, visto che c'è tanta Serie A di cui parlare. Io credo che in realtà in questo momento un antagonista della Juventus non esista, a prescindere dall'effetto ottico, dal risultato di Napoli-Lazio, che potrebbe mandare il Napoli alla pari dei bianconeri in caso di vittoria, però credo che dal punto di vista qualitativo un antagonista vero lungo tutto il campionato non esista, anche se credo che Napoli e Lazio faranno una grande stagione almeno fino a gennaio, poi quello è il crinale, lì bisognerà fare i conti con tante cose, con i cali di condizione, con gli infortuni eccetera eccetera. Però credo che Napoli e Lazio siano più competitive rispetto a Milan e Juventus almeno fino a gennaio. Emiliano, provincia di Mantova. Buongiorno, salve. Io volevo fare una considerazione e sentire se è d'accordo. Ieri sera la Fiorentina ha dominato la Juventus. La Juventus non ha messo in campo Marchisio e Vucinic. E ciò nonostante, con una partita caricata anche emotivamente, dove loro danno sempre il 200%, non hanno vinto. Mi ricollego alla sua analisi per confermare che, secondo me, al di là di tutto, questo vuol dire che non c'è una gran storia in questo campionato. La Juventus è superiore perché comunque ieri sera non ha perso nonostante tutti questi complimenti. Sì, ma attenzione perché sono Marchisio e Vucinic, soprattutto, sono giocatori di cui la Juventus non può fare a meno. Il vero problema della Juventus, un campanello d'allarme che è squillato già con il Genova a Genova un paio di settimane fa, è nel fatto che la panchina, la rosa, mi sembra vagamente corta per tenere fronte ai due impegni. Credo che la Juventus abbia 13-14 giocatori veramente affidabili e veramente intercambiabili, ma non di più. Credo che la Juventus abbia dei giocatori di cui non può assolutamente fare a meno. Uno di questi è Andrea Pirlo, che Boban vorrebbe pensionare dall'azzurro, e l'altro è Mirko Vucinic, perché nessun attaccante ha le sue caratteristiche. Poi accanto possiamo mettergli Giovinco, che ieri sera pure non ha brillato di nuovo, possiamo mettergli Quagliarella che dopo i tre gol in due partite si è preso un martedì di riposo, però Vucinic è il giocatore che in attacco nella Juventus fa la differenza. Andrea da Trento. Sì, salve. Intanto volevo fare i complimenti per il taglio della trasmissione, quello nuovo che ha dato, perché è veramente esilarante e divertente. La grazie. Con la gag sul Milan ho passato un'ora di assoluto divertimento. Quando? Anche da simpatizzante del Milan. Sulla gag tra Allegri, dei soliti idioti, tra Allegri e Inzaghi, è stato fantastico. Sì. Io volevo soltanto sottolineare un punto sul discorso Juventus, che a me pare talmente evidente, però in pochi ne parlano, almeno a mio modo di vedere chiaramente. È quello della presenza di un mostro, assoluto mostro a centrocampo, che porta il nome di Vidal. Ecco, tutte le volte che Vidal ha avuto un calo di rendimento, la Juventus ha saltato tantissimo. Bravo, altro giocatore. Vidal è ancora molto più importante di Vucinic e di tutti gli altri, perché quando lui ha le prestazioni, intanto non ha rarissimi calli di intensità e di agonismo, ma ha qualità, tiro, segna, corre, anche quando non sta benissimo, come l'infortunio in Inghilterra, a Londra, è riuscito a tenere in piedi la Juventus, che nell'unico momento in cui lui giocava ha subito i due gol. Giocatore mostruoso. È una cosa che non si può sostituire. Lei ha ragione, Andrea. Lei ha ragione, e doveva aggiungere anche Vidal all'elenco di quelli di cui sopra. Vidal è un giocatore mostruoso. È un giocatore che ha quantità e qualità, del quale la Juventus non può fare a meno, e abbiamo anche di questo ampie riprove. Però questo conferma il fatto che la Juventus impegnata su due fronti, mi sembra, e questo è il campanello d'allarme di qui sopra, non so se siete d'accordo, 800240024 per essere convocati anche voi, questo è il campanello d'allarme che c'è al momento in casa bianconera, cioè Conte deve, conto chi per esso, l'allenatore dietro il vetro, in tribuna o dove volete voi, e Carrera, allenatore in panchina, questo è il problema con cui devono fare i conti, perché mi sembra che la rosa sia in quei 13-14 giocatori assolutamente competitiva, inarrivabile probabilmente per il campionato italiano, però corta per tutti gli impegni che aspettano i bianconeri. C'è chi scrive su Twitter come Alessandro: Pirlo deve rinunciare alla nazionale per 1-2 partite andate male. Non scherziamo, è semplicemente umano e può avere dei cali. Oppure Alex su Twitter sempre: è bastata una Juventus in infradito per fermare il meglio che riesce a fare la Fiorentina, Juventus imbattibile sempre. Questo è il pensiero che corre su Twitter. Saluto e ringrazio mio vecchio amico Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao Carlo, ben ritrovato. Ben ritrovato tu dopo tanto tempo e dopo tante Olimpiadi. Senti, vorrei parlare con te prima di tornare a chi è convocato all'800240024, della rivoluzione, perché di questo si tratta, almeno per la mentalità italiana, di un campionato di pallavolo che non avrà retrocessioni. Sì, pare che la pallavolo sia diventata un po' quello sport che fa delle rivoluzioni, l'ha fatto nel punteggio qualche anno fa ormai, e sta toccando quello che però in Italia è considerato un po' il sancta sanctorum, cioè si tocca nelle retrocessioni. Allora io farei così: partirei da capire come si è arrivati a questo punto. Non è che un giorno si sveglia e uno dice basta retrocessioni. L'idea è quella, in un momento di crisi, di trovare qualche soluzione per fare sì che il maggior numero di squadre possibili potesse spendere un po' di meno. Quali sono i sistemi? Non si può usare il salary cap americano perché non si è professionisti, non hanno trovato un accordo su una specie di ranking che in base alla posizione che hai in classifica ti permette di avere più o meno giocatori di prima fascia. Tutto molto complicato, che non era accettato. La speranza era quella che prima delle retrocessioni alcune squadre di fascia media o bassa non facessero delle pazzie indebitandosi per acquistare o tentare di avere giocatori che li portavano alla salvezza come obiettivo unico. Sotto questo profilo mi sembra sensata. Che sia l'unica soluzione? Probabilmente no. Che valga la pena sperimentarla? Direi di sì. parole di chi lavora in Lega da qualche tempo, senza che questo debba essere considerato un dato inequivocabile, perché ho un primo punto di contatto, pare in questa fase alcune squadre abbiano risparmiato intorno al 20% rispetto agli anni passati. Questo è quanto. Poi un campionato di retrocessioni, come abbiamo detto, è qualcosa che anche me preoccupa. Mi preoccupa perché la regular season a questo punto per alcune squadre che cosa significa, e via dicendo. Sì, ma anche dal punto di vista dell'agonismo, no Andrea? Cioè, voglio dire, come sappiamo, la mentalità italiana vive su confronti campanilistici, vive sull'agonismo, vive sul, ti dico, sangue arena, però su comunque partite in cui c'è qualcosa in palio. Se non c'è nulla in palio, io me la, insomma, la risposta la aspetto da un pubblico competente, numeroso sempre, come quello della pallavolo. Hai ragione, tieni conto che 10 squadre su 12 lotteranno per accedere ai playoff. La posizione in cui arriveranno avrà, come spesso accade nella griglia di partenza, una rilevanza non indifferente, quindi solo due squadre alla fine potrebbero essere escluse dai giochi e quindi non avere motivazioni per giocare. Per quanto riguarda il discorso del pubblico appassionato, ricordiamoci che basket e pallavolo da anni hanno deciso che i playoff sono il modo più spettacolare per assegnare lo scudetto, e già di questo in qualche modo è una scelta di campo che porta a pensare alla regular season come un passaggio, un avvicinamento non trascurabile, però non va a vedersi la finale a metà del campionato come avere come in altri sport. Non so che dirti, però trovo che io almeno sono d'accordo sul fatto che una Lega come la pallavolo abbia provato con serietà, non credo, a capire quale possa essere un nuovo modello far sì che i campionati non perdano ogni anno per strada una o due squadre. Che la ragione fosse legata solo al fatto delle retrocessioni o meno, no, non credo, per la verità, credo che qualunque sistema debba essere interpretato. Io sono, come dire, contento di vedere quello che di aver deciso di sperimentare questa nuova formula. Poi, se uno parte e a metà campionato, visto che non viene più lo scudetto, inizia a vendere giocatori, è chiaro che questo potrebbe falsare ancora di più quello che è il corso del campionato. Sì, io ho Luca, però, infatti ho Luca su questo argomento, che scrive su Twitter: speriamo che funzioni in un paese di tifosi, non di sportivi, e che sia l'inizio di una nuova cultura. Sì, però non è che partiamo da una posizione di tutto perfetto, spesso ci lamentiamo, la stessa trasmissione, tutti convocati, sta a significare che partiamo da un paese che ha poca cultura sportiva, in cui non si possono fare grandi innovazioni, in cui ogni volta che si prova a toccare qualcosa sembra che si vada a toccare qualcosa di intoccabile. Quindi, su questo, pur con tutti i dubbi, ci mancherebbe, però qualche tentativo può essere fatto. Quest'anno la pallavolo ha tolto il V-Day, che l'anno scorso è stato un successo straordinario. Anche lì c'è un ragionamento che secondo me è sensato: il V-Day è stato introdotto a forza e anche molto criticato perché le stagioni erano molto molto corte. Sì. La stagione post-olimpica è quella più rilassata. Sì. A questo punto il V-Day ha perso la ragione principale per questo inserito. Rimane una bellissima partita, se come l'anno scorso finisce 3-2 a puntesi incredibili, se lo studio si assegna in un 3-0 in cui nessuno si diverte, il V-Day non è più quel grande evento che è stato l'anno scorso. Quindi siamo in presenza di situazioni un po' complicate da gestire, soprattutto in con grande anticipo. E allora proviamoci, e soprattutto non cerchiamo di vedere sui lati negativi, ma anche quelle che sono le possibilità e le sperimentazioni. Poi a metà anno, a fine anno, faremo i conti, diremo: no, è stata una stupidata, o magari è stato un nuovo passaggio interessante. È stato un passaggio interessante, oppure è stato qualcosa di obbligato perché la crisi questo impone, Andrea? Sì, adesso io credo che non si può fare a meno di guardare anche la crisi economica, questo è un dato di fatto. Che il blocco delle retrocessioni sia l'unica soluzione o la migliore, e ce lo dovrà vedere. Fare finta invece che non ci sia la crisi, questo è insensato e colpevole. Ognuno potrà trovare la soluzione che meglio si adatta al suo sport, alla sua condizione, ma anche lì passiamo sempre all'idea che qualunque tipo di regolamento o innovazione funzionerà solo se c'è da parte di tutti la buona volontà. Certo. Accogliono gli aspetti positivi, certo. Se no troveremo l'inganno, troveremo la modalità per fare quello che ci fa comodo, ma questo vale per tutto, e quindi insomma è inutile stare lì a discutere solo nel caso del blocco delle retrocessioni. Poi io sono l'uno di che a me mancano, perché in Italia viviamo per lo scudetto e per le retrocessioni, certo, sono i due grandi momenti nei quali ci identifichiamo, certo. Però abbiamo esempi di sport che amiamo entrambi, che in realtà riescono a vivere anche di continuità senza che tutte le settimane ci sia una partita decisiva, lo si può guardare, si aspettano i playoff, quindi insomma, questo diciamo. Andrea, convocato al più presto, come sempre, grazie. Ci sentiamo. Sempre convocato Andrea Zorzi, naturalmente in questo programma c'è un'indiscrezione di Leggo, secondo cui in primavera il Milan potrebbe cambiare padrone. Non sceicco, non cinese, non magnate russo di turno, ma la famiglia Ferrero, che è pronta a trattare il passaggio di proprietà. Questo lo scopriremo vivendo. Tanto un sacco di ascoltatori oggi convocati all'800240024. Giovanni da Milano. Sì? Sì? Pronto? No, Giovanni da Campobasso, tifoso del Milan. Ah, speriamo che quello ho un altro Giovanni da Milano che interverrà più tardi, comunque allora, di Giovanni ne avevo due, dica. Omonimia. No, dico, prendo per buona la notizia che lei ha appena dato, l'indiscrezione che lei ha appena dato, magari arrivasse una famiglia come Ferrero a prendere il Milan. Io volevo dire due parole su quello che si stava dicendo prima sul ruolo di Pirlo. L'anno scorso tutti hanno detto la Juventus era favorita perché giocava una volta a settimana. Quest'anno si cominciano a vedere le due partite, addirittura tre in 10 giorni, in pochi giorni. E Pirlo, che quando era al Milan dicevamo noi milanisti, la società, non c'è un clone, questo esatto. Problema lo avrà anche la Juventus, perché Pogba è lontano Milan. No, non ce n'è, non c'è un giocatore che può fare il ruolo di Pirlo, esatto. Ma allora, questo è il vantaggio e il limite dell'avere un giocatore così attraverso cui passa il filo della corrente della squadra. Però se la Juventus dovesse avere un caro Pirlo prolungato, il rendimento non è come quello dell'altro anno, dovuto agli impegni maggiori e non ai ricambi, le cose secondo me cambiano. Poi dicerà lo stesso la Juventus, però il rendimento dipende molto da quel giocatore lì. Ah, tutto. Sicuro. La ringrazio. Sicuro. Grazie a lei, Giovanni. È chiaro che dipende molto da quel rendimento lì, perché, come ho detto, ha la pulsantiera della squadra in mano e non c'è un altro giocatore di quel tipo attraverso il quale passano comunque i fili di tutto il gioco. Quindi sono d'accordo con chi dice che Pirlo 50 partite l'anno allo stesso livello non riesce a giocarle fisicamente, perché è un essere umano. Giovanni da Milano. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Due cose essenziali sulla Juve. Primo, Zeman deve imparare a pensare un po' meno per conto suo e un po' anche per gli altri, perché quando parla del tribunale deve anche ammettere che sono stati tutti quanti assolti e quindi magari chiedere scusa a qualcuno della Juve accusato da lui. Non torniamo su questi discorsi, se no si arriva alle prescrizioni, si arriva a certe deposizioni e si ritorna su polemiche che ormai sono molto lontane nel tempo. Dica. E poi sulla Juve tattica. L'anno scorso Conte ha cominciato con un 4-3-3 quasi assurdo, poi è passato a giocare con un 3-5-2 che poteva andare bene. Quest'anno il 3-5-2 non va bene perché non ha le punte per fare il 3-5-2, però insiste a giocare col 3-5-2. Ne farei una questione di condizione dei giocatori e soprattutto di scelta dei titolari. Poi se giocano i titolari, se giocano i giocatori che hanno la qualità necessaria, i numerini secondo me passano abbastanza in secondo piano, Giovanni. Abbiamo ancora tempo, qualche minuto per gli ascoltatori convocati qui sempre, ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 15, 800240024. C'è chi smetterà di mangiare la Nutella se Ferrero comprerà il Milan, ed è Loris, Serafino dall'Aquila. Pronto? Pronto, dica. Mi sente, buongiorno, buon lavoro a lei e alla sua redazione. Dica. Pronto? Sì, sì, la sento bene, grazie. Senta, io in riferimento alle problematiche che sono state affrontate da diversi ascoltatori sulle oggettive difficoltà di Pirlo in questo periodo, che abbiamo potuto constatare sia nelle partite con la Nazionale che sia con le partite con la Juventus. Cioè, mi dico e dico a voi, ma il top player della Juventus non poteva essere un certo Marco Verratti, pescarese, che sta spopolando a Parigi? pagato 12 milioni di euro e qui come guardi italiano, io le rispondo, le rispondo un'altra cosa. Lei sa che nelle ultime due stagioni grosso modo nel calcio italiano non sono mai stati spesi più di 15 milioni di euro per comprare i giocatori. Evidentemente anche la Juventus, probabilmente sbagliando, non si è sentita di, a torto dico, probabilmente perché Verratti sta facendo impazzire la Francia, non si è sentita di investire così tanti quattrini in un giocatore che comunque arrivava da una splendida stagione di Serie B e che comunque rappresentava una scommessa, rappresentava un grande investimento, rappresentava comunque qualcosa di incerto ed insicuro. La Juventus andava incontro all'idea di un top player, di un giocatore già affermato, già in grado di garantire certe cose. Dunque, per la situazione del calcio italiano, mi viene da dire che Verratti era inarrivabile nel rapporto qualità-prezzo, nel rapporto età-prezzo, nel rapporto carriera già fatta-prezzo. Poi è chiaro che, ma lo dicono in molti, poteva essere, potrebbe essere il sostituto ideale di Pirlo e ce lo auguriamo tutti quanti in coro, in chiave azzurra. Andrea Milano. Salve. Salve. Tre concetti brevissimi, poi attendo la sua risposta. Dica. Cortese, come sempre cortese. 50 partite Pirlo, è vero, non le può fare, però le pretendo da Vidal e Marchisio, a un altro livello. Per cui è chiaro che se Pirlo cala un po', gli altri due devono essere sostenuti. Devono sostenere questa cosa. Ieri uno non ha giocato, l'altro evidentemente non era in forma. L'altra cosa, la Juve può sostenere due fronti? No, perché si è visto ieri, Quagliarella non è un giocatore che può giocare a spalle alla porta, appena è entrato Vucic non doveva uscire Quagliarella, ma devono giocare insieme sostanzialmente. Uno va a prendere la palla alla Ibra nel Milan e l'altro va in profondità. Questo è il gioco della Juve. L'altra cosa, ieri un Pirlo c'era in campo, aveva l'altra maglia, forse costava anche poco, si chiama Pizarro, secondo me ha fatto una partita sontuosa, nello stesso ruolo di Pirlo, non so, molto ovviamente ha un carattere difficile questo ragazzo, perché sono anni che gioca. Ma lei si ricorda che il nome di Pizarro è già stato l'anno scorso accostato a quello della Juventus, no? Nel mercato. E allora molto ovviamente gli osservatori tecnici della Juventus vedono altro calcio. E Pizarro è un giocatore che da 10 anni, quando ha potuto giocare, ha sempre giocato ad altissimi livelli, giocatore di una tecnica spaventosa, una grande visione di gioco, di un gran tiro, di un gran passaggio. Non riesco a capire perché si va a cercare Verratti, 12 milioni, 15 milioni, forse Pizarro era anche a costo zero. Sì, Pizarro comunque rappresentava una soluzione certamente più economica rispetto e più garantita rispetto a quella di Verratti, che magari, ce lo auguriamo tutti, ripeto, diventerà molto più forte di Pizarro, magari anche più forte di Pirlo, sto esagerando, però Era comunque una scommessa. La verità è che il vice Pirlo non esiste, Pizarro comunque è un giocatore che possiede quelle caratteristiche. Poi sono d'accordo sulla seconda considerazione che ha fatto, e cioè sul fatto che Vucinic è imprescindibile. Poi si scelga pure il compagno d'attacco più funzionale, che sia Giovinco, che non mi pare in grande condizione, o Quagliarella, che per caratteristiche tecniche mi sembra sia si sposi molto bene con quelli di Vucinic, però Vucinic è un giocatore imprescindibile, lo ripeto, per la Juventus. Ecco, il vero fuoriclasse della Juventus insieme a Pirlo, a mio parere, rimane Mirko Vucinic. Che dite, facciamo l'indovinello sulla Champions League? I numeri della Champions. E ve ne do un paio di numeri relativi alla Champions League di quest'anno. 213 è il numero totale delle partite previste in questa edizione, alcune delle quali, quelle del primo turno naturalmente, sono già state giocate. 88 nei preliminari, 125 tra la fase a gironi e a turni e la fase ad eliminazione diretta. Poi vi do anche un numero che secondo me non conoscete, che è questo: 7,5 è il peso in chilogrammi del trofeo consegnato ai vincitori. La coppa, opera dell'incisore svizzero Bonninger, è alta 62 cm, ripeto, pesa 7,5 kg. La maggior parte di noi non arriverà mai a prenderla per le orecchie e a misurarne peso e dimensioni, che sono comunque queste. i numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. E ancora due ascoltatori per chiudere il programma di oggi. Mimmo da Milano e Massimiliano, sempre da Milano. Mimmo, dica. Sì, buongiorno. Salve a tutti gli ascoltatori. Io volevo dire una cosa per quanto riguarda la pallavolo giovanile. Sì. Ho una figlia che ha fatto 2 anni di mini volley. Sì. Quest'anno è entrata a far parte dell'Under 12. Mm. Questo mi sembra un po' eccessivo, avendo avuto anche un figlio di più grande che ha fatto calcio, il paragone della quota di iscrizione. Mm. Under 12 pallavolo, 500 euro. Mi sembra un po' assurdo. Sì, mi sembra tanta roba rispetto al calcio. Sì, sì, mi sembra tanta roba, la lasciamo lì, è un grosso modo un problema personale che riguarderà anche molti, però la verità è che per i nostri figli fare sport costa molto, vengono richiesti molti soldi, che sia calcio, che sia basket, che sia pallavolo, le quote di iscrizioni sono elevate e il problema si pone per tutti. 500 euro senz'altro oggi non sono poca roba. Massimiliano, Milano. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, per la sua impeccabile professionalità e competenza. Grazie. Molto rapidamente, io sono tifoso del Toro con tutti gli oneri e gli onori del caso. Sto male a sentire che la famiglia Ferrera è interessata a comprare il Milan, perché i tifosi del Toro sognano da una vita, la famiglia Ferrera è granata da generazioni e mi fa male pensare che non vogliano investire nel Torino, ma indiscrezione di Leggo, la ripeto, cioè non è una notizia... E l'altra cosa era sulla Juventus. Da tifoso del Torino, molto obiettivamente, però mi sembra che la Juventus, il mio feeling è che non sia la stessa dell'anno scorso, indipendentemente da Pirlo, dall'annata eccetera. Io ho l'impressione, nelle prime 4 partite a Genova, nel primo tempo col Parma e ieri, l'ho vista molto diversa dall'anno scorso. Quindi è vero che nel campionato italiano forse non c'è una rivale all'altezza, questo è il vero problema. Ma la mia impressione è che non sia la stessa Juve dell'anno scorso. Non so cosa ne pensi. Che non sia la stessa Juve dell'anno scorso, secondo me è una Juve più forte rispetto a quella dell'anno scorso, però è anche una Juventus che deve fare i conti anche mentalmente col doppio impegno, e non è roba da poco. La Juventus dell'anno scorso era spietata e affamata, magari questo lo è un po' di meno, però ha molte più partite su cui concentrarsi. Il problema vero sarà quello di trovare equilibrio all'interno della rosa. Torniamo a parlarne domani, quando avremo tutti i risultati della Serie A. Franco Pianetelli in redazione, Roberto Scaltretti in regia. Ciao a tutti.